Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Quella che si sta chiudendo è una settimana che ha visto sotto i riflettori il mercato obbligazionario italiano insieme a quello di tutto il vecchio continente. Gli spread, i differenziali di rendimento fra i titoli di Stato, per esempio del nostro paese, e i titoli di Stato tedeschi, hanno ripreso a salire in seguito alle tensioni in Spagna e alla possibilità che il paese possa presto chiedere un piano di salvataggio all'Europa. Si sa già che il sistema bancario spagnolo ha necessità di essere ricapitalizzato, questione diversa se invece è lo Stato a chiedere aiuto alle autorità economiche e finanziarie internazionali. Di fatto tutte le regioni spagnole stanno chiedendo un sostegno al governo centrale, 5 regioni lo hanno già fatto. Per quello che riguarda noi, ieri il nostro differenziale ha chiuso a 366 punti base, durante la giornata è arrivato a toccare quota 380, stamattina ha aperto di nuovo a 366, adesso sta riprendendo a salire 374. Nuovi dubbi si sono rincorsi negli ultimi giorni anche sulla Grecia, dove la Troica, questa istituzione formata da Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea, sono i tecnici che stanno controllando come si sta comportando la Grecia, se ha intenzione di rimettere a posto i suoi conti pubblici. Appunto, la Troica ha riscontrato in realtà un buco nelle casse dello Stato, ancora più importante di quanto previsto. Questo è stato un po' anche il gossip finanziario di cui si è discusso per tutta la settimana. Anticipazioni che erano state date dalla stampa tedesca, il governo greco però sta continuando a smentire il fatto che questo buco ci possa essere, ma in ogni caso anche su questo nuovo scenario il mercato è stato un po' traballante nella settimana. Abbiamo avuto la pesantissima seduta, appunto, ricorderete, di mercoledì scorso. Nel frattempo in Italia cosa è successo? In settimana ci sono state diverse aste di titoli di Stato con risultati nel complesso positivi. Il Tesoro inoltre, oltre a quello che è successo in settimana, poi vi faremo di nuovo un riepilogo dei risultati e degli esiti in termini di rendimenti dei BOT e dei BTP piazzati appunto nel corso degli ultimi giorni. Il Tesoro ha anche annunciato ufficialmente la terza emissione del BTP Italia. Questa terza tranche sarà appunto proposta al pubblico indistinto, perché è proprio un prodotto rivolto al pubblico retail, tra il 15 e il 18 ottobre, e tra l'altro questa settimana proprio il primo di questi titoli, quello che era stato collocato in marzo, ha staccato la sua prima cedola, perché il BTP Italia, ricordiamo che riconosce una cedola semestrale, ed è stata un riconoscimento anche abbastanza interessante perché ha spuntato il 5%. Allora, a partire da tutti questi elementi, Salva Danaio questa mattina fa il punto sul mercato obbligazionario rispondendo come sempre alle domande degli ascoltatori all'800240024. Tra l'altro ieri ascoltatori che abbiamo stimolato anche su Facebook proponendo questo nostro piccolo sondaggio, chiedendo a tutti: vi fidate ancora dei titoli di Stato italiani? E cosa ci avete risposto? In realtà in molti ci avete risposto: non mi fido ancora della solidità del paese. Un'altra fetta di nostri affezionati ascoltatori che ci seguono sul social network ci ha risposto: nel breve mi fido, ma sono preoccupato per il dopo Monti, nonostante le parziali rassicurazioni che da New York ieri Monti ha dato. Insomma, se per il paese ci fosse bisogno io sarei anche disposto a continuare questo impegno pubblico. E poi altri ascoltatori invece ci hanno risposto: ci sono altri investimenti rispetto ai titoli di Stato che consideriamo più convenienti e sicuri. Diteci la vostra anche al numero verde, oppure ce la potete dire al 349-238-6666. Potete scriverci a salvadanaio@radio24.it. E potete andare a continuare ancora a stuzzicare la nostra attenzione su Facebook, Salva Danaio - Radio 24. Con chi parleremo di tutto questo questa mattina? Con Giulio Casuccio, responsabile delle gestioni quantitative e ricerca di Fondaco SGR. Casuccio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E ringrazio anche per essere ritornato nella nostra trasmissione Saverio Scelso, presidente e amministratore delegato di Copernico SIM. Scelso, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei. Allora, la borsa invece che cosa ci racconta questa mattina? Sul mercato obbligazionario vi ho già detto quelli che sono i temi che stanno condizionando l'andamento anche degli spread delle ultime giornate. Allora, la borsa era partita bene rassicurata dalle notizie che arrivano dalla Spagna, non che fossero particolarmente confortanti rispetto agli ultimi giorni, però la Spagna ha presentato il suo budget, la sua manovra finanziaria, che chiede altri sacrifici agli spagnoli. Gli spagnoli non sono contenti, ma quantomeno sono contente le autorità europee, che osservano con attenzione lo spirito di sacrificio appunto del governo Rajoy. La manovra finanziaria spagnola conta di ridurre di almeno 18 miliardi di euro il deficit del prossimo anno, però è anche vero che la quinta regione spagnola, la Castiglia-La Mancia, ha dichiarato di essere pronta a chiedere aiuti pubblici al governo centrale di Madrid. Sono così 5 in totale le regioni che fino ad ora hanno fatto richiesta di aiuto allo Stato. La mattinata era partita bene, vi dicevo, poi c'è stato un cambio di direzione. Gli indici hanno virato tutti al ribasso. Milano e Parigi stanno perdendo mezzo punto, Francoforte perde lo 0,21%, Londra ancora positiva più 0,26%. Vanno un po' meglio le cose sul fronte euro, perché la moneta unica europea è ritornata stamattina scavalcandola abbondantemente la soglia di 1,29 sul dollaro, adesso è 1,29,36, ma vedo che appunto l'entusiasmo della prima parte della mattinata si va ridimensionando. I migliori titoli di Milano: Finmeccanica più 1,31, pare che ci sia una certa accelerazione nelle trattative per la cessione di Ansaldo Breda, ma anche questa è una notizia della quale si parla da tempo, ogni tanto viene riesumata dagli operatori di mercato, per il momento però ancora senza notizie definitive. Diasorin più 0,7, Terna più 0,48, Pirelli più 0,36. Scendono invece di nuovo tutte le banche, vedo quindi Popolare dell'Emilia Romagna meno 3, ma anche altri titoli difensivi: Enel Green Power meno 2,29, A2A meno 2,14, Mediobanca meno 1,89, Popolare di Milano meno 1,31%. Questa è la giornata di borsa in questo momento, ma sentiamo un po' sui titoli di Stato cosa è successo negli ultimi giorni. L'Italia non è più un paese a rischio. Parola di Mario Monti, che in un'intervista alla TV pubblica ha rassicurato così gli Stati Uniti, dove si è recato per intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Una dichiarazione che arriva nel bel mezzo di una settimana che ha visto tutti gli occhi puntati sulle tensioni dei paesi europei e che ha rivisto salire i famigerati spread. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi è tornato a superare, nella giornata di ieri, quota 380 punti, dopo aver aperto la settimana sotto i 350. Eppure sembra che, sempre riprendendo le parole di Monti, la terza economia dell'Eurozona non stia aggiungendo peso a una serie di focolai locali. La responsabilità delle preoccupazioni che hanno coinvolto i mercati obbligazionari in questi giorni non arrivano, insomma, da casa nostra. Nell'occhio del ciclone c'è la Spagna, dalla quale ci si aspetta, a momenti, la richiesta di un piano di aiuti al Fondo Salva Stati, e dove si è acuito lo scontro politico in Catalogna. Si parla addirittura di secessione, senza dimenticare le accese manifestazioni anti-austerity. Dal canto suo, anche la Grecia non manca di dispensare nuove preoccupazioni. La Troica, UE, BCE ed FMI, ha riscontrato un buco nelle casse dello Stato ancora più importante di quanto previsto. Nonostante tutto questo, tornando all'Italia, il fitto calendario di aste dei titoli di Stato ha visto comunque risultati positivi. Martedì, mercoledì e giovedì il Tesoro ha sempre collocato l'intero importo di CTZ e BOT emessi con varie scadenze, e i rendimenti sono scesi rispetto ai mesi scorsi. Il Tesoro inoltre ha annunciato ufficialmente la terza emissione del BTP Italia, in programma da lunedì 15 a giovedì 18 ottobre, e l'intenzione, con l'offerta di questo tipo di prodotto con durata quadriennale e premio fedeltà per chi lo conserva fino alla scadenza, è sempre quella di avvicinare al mercato obbligazionario il piccolo risparmiatore. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Questa mattina sul Sole 24 Ore appare un'intervista a Maria Cannata, responsabile della direzione sul debito pubblico al Tesoro, intervista della nostra Isabella Bufacchi. La dottoressa Cannata dice che il mercato inizia a percepire un'Italia meno sensibile al contagio rispetto al picco della crisi dell'euro, quello che abbiamo registrato come ricorderete, praticamente un anno fa. Il picco fu tra ottobre e novembre. E la dottoressa Cannata dice che preferisce in questo momento concentrarsi su altro, sul monitoraggio della domanda estera, sui titoli di Stato italiani. Gli investitori stranieri, dice, sono rientrati, cioè avevano pesantemente abbandonato negli scorsi mesi, e non sono più solo concentrati sul breve termine. Vi volevo anche un po' fare un raffronto su quello che sta succedendo in questo momento, quello che stava succedendo per esempio nel novembre dello scorso anno, quando il Tesoro italiano piazzava BTP a 3 anni e il mercato chiedeva rendimenti al 7,89%, nelle ultime aste invece per il titolo a 3 anni il mercato ha chiesto il 2,75%, un calo del 5% sui rendimenti chiesti. Questo è il caso sicuramente più clamoroso, ma per il bot a 3 mesi, per esempio, un anno fa andavamo sul mercato con una richiesta all'1,90%, adesso riusciamo a piazzare il titolo trimestrale allo 0,70%. Giulio Casuccio, abbiamo una condizione di maggiore tranquillità, ci possiamo cullare sugli allori oppure comunque dobbiamo ancora mantenere una certa vigilanza? Non ci possiamo cullare, ma oggettivamente le ultime settimane hanno messo in evidenza in maniera positiva un comportamento, insomma, più virtuoso dell'Italia, anche un minor coinvolgimento rispetto alle tensioni che hanno invece coinvolto gli altri paesi periferici, la Spagna in particolare per quanto riguarda il mercato obbligazionario, la Grecia in parte, il Portogallo. Quindi i sacrifici che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare un pochino cominciano a pagare. Sarà importante continuare su questa strada, questo è fondamentale. Certo, non che non abbiamo risentito questa settimana delle tensioni che ci sono state in Spagna, ma magari fosse stato un altro momento, come per esempio 6 mesi fa, 8 mesi fa, 10 mesi fa, sicuramente le notizie che arrivavano dalla Spagna si ripercuotevano sulla nostra situazione in maniera molto più dirompente. Casuccio, che cosa è cambiato secondo lei? Ma è cambiato da un lato, appunto, pensavo qualche mese fa la Spagna aveva rendimenti più bassi di quelli dell'Italia, quindi i tassi di interesse spagnoli erano più bassi rispetto a quelli italiani, soprattutto nel momento di maggior tensione della nostra situazione. Adesso la situazione si è invertita in maniera significativa. È cambiato da un lato che i numeri dell'Italia, anche in termini di PIL e di debito, sono migliori, anche quelli prospettici per il prossimo anno si annunciano una situazione migliore rispetto a quelli della Spagna, per una serie di ragioni diverse, e soprattutto che l'Italia ha guadagnato una credibilità importante nei confronti dei mercati grazie appunto agli sforzi e ai sacrifici che è stata in grado di fare in questi ultimi mesi, e di fare, tra l'altro, questo è importante, faceva riferimento lei alle tensioni che stanno attraversando Madrid e la Spagna in questi giorni, di farlo invece dimostrando anche una responsabilità sociale, nel senso anche da parte dei singoli cittadini che hanno compreso la situazione, accettato questi sforzi che in realtà stanno toccando molto direttamente, insomma, le tasche degli italiani, ma lo stiamo facendo e li stiamo affrontando con una consapevolezza, con una coscienza che di sicuro, insomma, sta facendo la differenza. Quindi merito di chi di sicuro ha portato l'Italia a queste scelte, merito anche degli italiani che le stanno accettando con, ripeto, grandissima consapevolezza e senso di responsabilità, infatti, nonostante quello che si dice, effettivamente ancora arginiamo, quantomeno, nonostante ci sia anche una manifestazione di piazza dei sindacati a Roma questa mattina, però ancora arginiamo le proteste. No, tra l'altro, Saverio Scelso, presidente amministratore delegato di Copernicus-IM, adesso vi faccio un po' commentare le notizie che appaiono sui giornali, poi naturalmente vi farò fare anche un po' il vostro lavoro, andremo nel dettaglio a commentare l'esito delle aste di questa settimana, a rispondere alle domande degli ascoltatori. Ve ne leggo una, tanto per così farvi capire l'interesse che c'è sul tema di cui stiamo parlando questa mattina. Marco ci scrive al 349-238-6666 alla domanda: vi fidate ancora dei titoli di Stato italiani? Lui dice: devo per forza crederci nei titoli di Stato italiani, ho investito tutto in BTP e con questi mi sto facendo la mia pensione integrativa con gli interessi semestrali reinvestiti. Poi vi chiederò se siete d'accordo anche con una scelta di questo tipo, però Scelso, le chiedevo anche lo spread un po' più tranquillino negli ultimi giorni, anche se Banca d'Italia lo vede a 200 punti base, la dottoressa Cannata qualche giorno fa ha detto che un range accettabile potrebbe essere quello fra i 200 e i 270, siamo a 380 da ieri e tra ieri e oggi. In ogni caso, il fatto che non sia andato ancora più in su. Può aver contribuito anche la serie di dichiarazioni di Mario Monti da New York, che in qualche maniera si è sbilanciato un po' sul dichiarare la sua disponibilità ed eventualmente a fare la sua parte qualora si andasse ad elezioni ancora con questa tensione politica che nel nostro paese non accenna appunto a placarsi. Basti vedere quello che sta succedendo nelle regioni del nostro paese. Stamattina abbiamo anche la Guardia di Finanza in Piemonte. Vabbè, allora, domanda complessa, nel senso che chiaramente Monti in questa fase probabilmente sta facendo moral suasion nei confronti dei politici per fare una buona legge elettorale e non mettere l'Italia nella condizione di dover per forza di cose prendere per l'ennesima volta un tecnico al governo. Quindi secondo me ha questo scopo, unitamente al fatto che essendo in America voleva anche tranquillizzare i mercati. Mi vorrei riallacciare a un discorso che si faceva prima relativamente allo spread. C'è un altro spread secondo me che va che è interessante, di cui ne parlava appunto la Buffanchi stamattina. Nel suo quello tra i BTP e i bonus. Esattamente, perché è partito da mesi fa era contrario, noi adesso siamo agevolati rispetto alla Spagna, abbiamo uno spread di 60 contro il loro 80. Quindi questo è estremamente interessante. Lei dice giustamente una rondine non fa primavera e tantomeno lo fa in autunno, però certamente questo è un segnale estremamente interessante che va valutato. Per quanto riguarda poi la risposta al risparmiatore italiano che compra tutto in BTP, c'è da dire che una certa dose di ottimismo va data, perché bisogna tener conto che giusto su un riferimento fonti nel tesoro, adesso noi avevamo in scadenza a settembre 2012 28 miliardi 767 milioni di titoli in scadenza, sono stati rinnovati qualcosa come 40 miliardi, quindi vuol dire che il tesoro in questo momento anche ad un buon prezzo sta facendo cassa, vuol dire che c'è domanda, vuol dire che il mercato tutto sommato a questo stato ci crede e non è soltanto l'italiano che ci crede. Però il risparmiatore faceva un altro tipo di considerazione: io con gli interessi che ricevo dai BTP mi faccio la mia rendita vitalizia. Adesso non conosco l'età di questo risparmiatore, però credo che se una persona dovesse andare a farsi una rendita vitalizia farebbe bene a comprarsi un piano pensionistico. Naturalmente questo dipende dall'età. Allora, magari avremo modo di argomentare meglio questa sua riflessione. Certo che fare il punto della situazione tra la pensione e l'investimento in titoli di Stato richiederebbe un paio di puntate, perché è un tema anche molto delicato. Magari manterremo la nostra attenzione sul quadro di mercato contingente. A Salvadanaio oggi ritorniamo sui mercati finanziari. Lo sapete, ogni tanto facciamo il punto della situazione. Ci è sembrato utile farlo in questa puntata, dopo una settimana ricca di eventi che hanno riportato di nuovo sull'ottovolante le borse con la giornata nera di mercoledì, e hanno riportato anche una certa attenzione sul mercato obbligazionario, perché lo spread fra BTP e Bund si è di nuovo un po' riallargato questa settimana, siamo di nuovo ritornati sui 380 punti base, però ci sono state tre aste piuttosto corpose organizzate dal Tesoro italiano che si sono concluse con successo e con rendimenti di nuovo in ribasso. Tanto per farvi un esempio, mercoledì il Tesoro italiano ha assegnato 9 miliardi di bot a 6 mesi con tassi che il mercato ha chiesto all'1,50%. Il mese scorso era il tasso per il titolo a 6 mesi all'1,58, ma solamente nel novembre dello scorso anno era al 6,50, quindi pensate quanto si è ridimensionata la tensione. Ieri BTP a 5-10 anni, lo stesso piazzati dal Tesoro per 5 miliardi e 650 milioni di euro. In realtà il Tesoro voleva piazzare 6 miliardi, poi ha ritenuto appunto di collocare un po' meno. Il rendimento medio sul decennale è sceso al 5,24% dal 5,82% dell'asta di agosto. E chissà, se lo spread fosse stato un po' più basso, magari forse potevamo anche arrivare al di sotto del 5%. Giulio Casuccio di Fondaco SGR, che ne pensa? Sì, sarebbe stata una possibilità. La tassa maggiore di emissione di questi anni sono andate bene. Oggettivamente la parte breve, anche in termini di domanda rispetto all'offerta, si è comportata particolarmente bene. Sulla parte lunga, cioè 10 anni, la domanda è stata relativamente più debole, ma comunque una buona domanda che ha permesso al Tesoro di piazzare, insomma, appunto un pochino meno di quello che era atteso. Ma è stata secondo lei, no, perché qualche volta funziona anche un po' al contrario, nel senso che se il Tesoro vede che magari il rendimento chiesto dal mercato è un pochino più alto di quello che immaginava, decide in autonomia di piazzare un po' meno titoli. Esatto, ecco. Stavo dicendo questo. una scelta anche secondo me relativamente tattica, per così dire, nel senso che, come messo in luce prima, il tesoro sta già emettendo non solo per quello che è scaduto da rifinanziare, ma cercando di sfruttare questo momento positivo dopo l'intervento e l'annuncio della BCE di Mario Draghi di inizio mese per fare un po' di cassa, insomma, cercare di indebitarsi e fare provvista di liquidità a tassi più favorevoli di quello che sarebbero stati anche soltanto un mese fa o sei mesi fa. Quindi probabilmente il target annunciato teneva conto anche di questa opportunità, visto che i tassi sono prelevati magari leggermente più elevati, parliamo di pochi centesimi rispetto alle aspettative, hanno preferito comunque limitare l'emissione, poi comunque parliamo sempre di insomma un'emissione sì, 400 milioni di euro infatti, rispetto a quella attesa, quindi è stata chiusa una scelta tattica di questo tipo. Oggettivamente la domanda è stata molto forte sulla parte breve, leggermente più contenuta su quella lunga, ma comunque è stato un asta con risultati molto positivi. Infatti, se pensiamo a un anno fa, insomma, eccezionalmente. Mamma mia, ci vengono i brividi solo a pensarci, ma basta tornare indietro anche a luglio, per ritornare un po' ad avere un po' di febbre. Tra l'altro, lei ha citato prima l'intervento e gli annunci di Mario Draghi. Appunto tra agosto e settembre la disponibilità della Banca Centrale Europea di intervenire sul mercato secondario appunto per acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà con procedure diverse rispetto alle modalità con cui la BCE faceva queste operazioni nei mesi scorsi. Alcuni ascoltatori scrivono effettivamente se c'è in questo momento una condizione di relativa ritrovata tranquillità sul mercato obbligazionario solo merito di Draghi. Effettivamente ha una grande importanza l'annuncio fatto e soprattutto gli interventi che seguiranno qualora i paesi appunto che ne hanno bisogno ne faranno richiesta, e non è detto appunto che la Spagna non sia sul punto di farlo, ma lo vedremo solamente nelle prossime settimane. Saverio Scelzo, non sa quante riflessioni stanno arrivando da parte degli ascoltatori sul tema che abbiamo lanciato prima, che direi non approfondiamo oggi perché è talmente importante e delicato che forse non vale la pena farlo, ma bisogna dedicargli una trasmissione. Cioè abbiamo commentato il caso dell'ascoltatore che ha scelto titoli di Stato a lunghissimo termine come modalità di investimento per costruzione della pensione integrativa. Scelzo diceva più che un titolo di Stato a lunghissimo termine io mi farei un buon piano previdenziale. Alcuni ascoltatori dicono vabbè, ma ai fondi pensione non ci crede nessuno. Ci ritorneremo allora su questo argomento, perché c'è molto scetticismo effettivamente sui piani di previdenza complementare. E un altro ascoltatore scrive: per farmi la pensione integrativa ho preferito acquistare un piccolo appartamento ed affittarlo. Beh, ognuno fa poi le scelte che ritiene più consone alle proprie esigenze. Scelzo, le faccio sentire una domanda di un ascoltatore per poi rispondergli. È Giancarlo dalla provincia di Torino. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Grazie per avermi chiamato. Ci dica. Allora, la mia domanda era questa all'esperto. Io ho un portafoglio molto diversificato, comprendente dei corporate bond, ETF in euro, ETF in dollari, e poi ho una cifra abbastanza elevata di BTP 5% 2022, che mi viene a fare un rendimento netto del 4,375. Avendo comprato alcuni mesi fa dei BTP Cum Italia, tanto per fare un piccolo assaggio, ho notato ieri che ho preso gli interessi l'altro giorno che mi hanno reso il 4,80 netto. Però la domanda che volevo fare all'esperto era questa: secondo me mi converrebbe vendere una parte, non so, un 50, 100 mila euro di BTP 5% e approfittare della prossima emissione. Un po' di più. Volevo sapere la sua risposta. Ecco, grazie. Infatti, effettivamente, Scelzo, queste inversioni della curva si sono verificate più volte, no? Negli ultimi tempi, i rendimenti dei titoli a breve che erano più alti di quelli a lungo termine. Lui faceva riferimento alla cedola che ha avuto questa settimana, che era proprio quella relativa al BTP Italia emesso a marzo. Sì. Secondo lei gli converrebbe fare questo switch? Dati i livelli di rendimento citati? È difficile fare previsioni in questo senso, io non gli consiglierei di fare degli switch, tra l'altro non so nemmeno i 100.000 euro quanto incidono percentualmente sul suo portafoglio. Se si trattasse di fare una ristrutturazione di portafoglio oggi per convertire ciò che è curva di lungo nell'ambito di una curva di breve o viceversa, questo dipende molto secondo me dagli obiettivi, ma non mi metterei oggi ad anticipare il trend di mercato, perché potrebbe essere molto pericoloso, soprattutto se l'incidenza percentuale di queste cifre sono molto alte nel portafoglio. Devo dire un'altra cosa però relativamente ai tassi. noi assisteremo con tutta probabilità a una convergenza di tassi italiani, diciamo tutto termine, ma paesi periferici nei confronti dei paesi interni all'euro, diciamo i paesi più virtuosi. Oggi lo spread è troppo elevato, noi ci aspettiamo che nei prossimi mesi, non anni, nei prossimi mesi questa tendenza andrà a ridimensionarsi, quindi ci sarà, non dico una coincidenza dei tassi, ma una convergenza, e questo potrebbe portare obiettivamente a dei cambiamenti anche delle curve dei tassi a breve. Noi oggi assistiamo però ad un fenomeno del tutto irrazionale. Vi voglio soltanto portare un esempio: i titoli di Stato a 10 anni del Brasile hanno un rendimento in dollari del 2,62%, Colombia 2,96%, Messico 2,71%, Italia 10 anni 5,097%, cioè senza levare nulla alla capacità di generare reddito di questi paesi, soprattutto il Brasile, ma parlo anche della Colombia e del Messico, che sono paesi certamente che hanno un futuro più roseo rispetto al passato, ma io reputo del tutto irrazionale uno spread nei confronti di questi paesi del 2%, cioè veramente. Quindi sono convinto che quello che diceva il governatore della Banca d'Italia, rilevato anche nell'intervista ieri alla dottoressa Cannata, sia corretto, cioè il nostro spread deve assolutamente ridimensionarsi rispetto ai paesi, diciamo, centrali. Qual è il livello che lei giudica accettabile? Guardi, io vorrei pensare ad uno spread tendente a zero, come era prima della crisi del 2008. Per tanti anni, da che è nato l'euro fino al 2008, praticamente non c'era differenza. Le vicissitudini dei mercati obbligazionari erano convergenti, addirittura più che convergenti erano coincidenti. Poi c'è stata la crisi del 2008, sembra quasi che l'Europa si sia scoperta improvvisamente più debole, senza aver capito che questa debolezza era di fatto nella sua struttura originaria, e secondo me anche questo è stato un errore, portare la coincidenza dei tassi fino al 2008 così lieve, ed è stato un ulteriore errore pensare a questo spread così elevato, perché è del tutto irrazionale. Cioè, capiamoci, se l'euro dovesse subire un crollo, non è che la Germania ceteris paribus lascerebbe inalterate tutte le altre variabili, cioè sarebbe impossibile per la Germania esportare le Audi, la Mercedes e tanti altri prodotti in un mercato comune che di fatto di comune non avrebbe più nulla. Lo tsunami la coinvolgerebbe e le conseguenze di questo coinvolgimento sono assolutamente imprevedibili. E infatti, devo dire che però anche questa minaccia virtuale fino ad ora ha condizionato ben poco le parole, l'atteggiamento anche degli esponenti appunto del governo tedesco, che tra l'altro se ne parla poco, ma noi ogni tanto affrontiamo anche questa argomento, affrontano e dovranno prima o poi affrontare anche un altro argomento, quello dei rendimenti sotto zero delle proprie emissioni obbligazionarie. Vabbè, ecco appunto, quindi. Ma scusi, Deborah, sì. Parliamoci chiaro, ma perché io devo andare a comprare un tasso oggi di interesse all'uno, poco, diciamo negativo di fatto nell'inflazione reale, quando ho all'interno dello stesso mercato dei tassi di interesse immensamente più alti? Lo so. Infatti l'altro giorno l'asta tedesca non è che sia andata bene, è vero che è un meccanismo astruso, difficile, non mi metto adesso a spiegare come funziona il meccanismo delle aste tedesche, però certamente c'è stata una domanda inferiore rispetto all'offerta, quindi il mercato si sta accorgendo intanto del fatto che in una situazione come l'Europa i vasi comunicanti nessuno si può ritenere escluso, e poi non vado ad investire a dei tassi bassi quando ho delle ottime alternative a dei tassi ancora più alti. E lo so, quindi considerazioni del tutto pertinenti e ragionevoli, però di fatto, anche se questa tendenza al rendimento verso lo zero e anche sotto zero dei titoli di Stato tedeschi si è manifestata da un bel po' di tempo, ancora la corsa verso questi porti considerati sicuri è continuata. Non vi dico in quanti ascoltatori stanno citando l'oro. Noi stiamo preparando una puntata anche su questo argomento, la rifaremo a breve per tutti coloro appunto che corrono a rifugiarsi verso il metallo giallo. Ritorniamo in diretta a Salvadanaio con la domanda di Riccardo da Bergamo, che probabilmente necessiterebbe di una risposta che potrebbe durare da qui anche alla prossima ora, però Riccardo cercheremo di sintetizzare grazie all'aiuto dei nostri ospiti di stamattina. Buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per la possibilità. Allora, la domanda in effetti è facile, la risposta è un po' più complicata, perché la domanda è questa. Cioè, io da un po' di tempo sono un risparmiatore preciso con propensione medio-alta a rischio, non ho più notizie negative di Irlanda e Portogallo. La domanda prima è questa: è ragionevole pensare di reinvestire una quota dei risparmi in questi paesi? La seconda affermazione invece è una domanda, dico, sono un po' sconcertato dalle affermazioni del vostro ospite che ha detto che la Germania avrebbe problemi a vendere le Audi e le Mercedes, ma quando si ha qualità si vende indipendentemente dal prezzo. Niente, adesso aspetto la risposta. Grazie. Grazie Riccardo. Allora facciamo anche il mercato automobilistico stamattina. Allora Giulio Casuccio, però vengo da lei. Portogallo e Irlanda stanno rimettendo a posto i loro conti al punto che non c'è troica che tenga, nessuno le guarda più, non sono più degli osservati speciali. Ci può fare una piccola sintesi della situazione di questi due paesi che hanno chiesto gli aiuti internazionali da tempo? Certo, ma la situazione è abbastanza diversa per l'uno e per l'altro paese. Positiva decisamente per l'Irlanda, che tra l'altro in questi mesi è tornata a emettere sul mercato obbligazionario con dei T-bills, quindi la carta breve, 3-6 mesi, però ha riavviato dopo quasi due anni un piano di vendita sul mercato con una buona risposta di domanda al momento dell'asta e anche con un buon movimento sul mercato secondario, hanno poi beneficiato anche loro del restringimento di spread ai paesi periferici in maniera significativa, perché oggettivamente hanno fatto, partendo molto in anticipo, comunque in maniera molto, molto rapida, tutti quegli interventi necessari per arginare i problemi che tra l'altro in Irlanda erano estremamente limitati al sistema bancario, sì, in un contesto economico invece più forte decisamente di quello portoghese. Non c'era un settore pubblico mangia soldi come per esempio in Grecia e oltretutto truccati, esattamente, no? Esattamente, e poi c'era un sistema economico tutto sommato solido che era cresciuto molto negli anni, di sicuro un po' gonfiato dal appunto sistema finanziario e dalle banche, ma c'era anche una parte di economia reale solida. Situazione diversa in Portogallo, in cui se ricomincia a parlare proprio in questi giorni, magari più posto tra i vecchi lavori che non ancora sui giornali. No, ce lo anticipi allora, vediamo qualche notizia ogni tanto anche noi. No, Portogallo sta comunque sta rivedendo le stime di deficit di PIL sul secondo o terzo trimestre di quest'anno e sono peggiori di quelle che erano le aspettative. È una questione abbastanza, tra virgolette, prevedibile, le misure fiscali fortemente restrittive e le misure di riduzione del debito che hanno messo in atto l'ultimo anno, anno e mezzo, stanno cominciando a mordere in maniera negativa sull'economia, che significa economia che sarà ancora in recessione di altri due punti, probabilmente per quest'anno, di sicuro per quest'anno, anche per il prossimo, che significa che in particolare i ricavi fiscali, le entrate fiscali, il gettito fiscale è stato più basso rispetto alle aspettative e quindi questo ha portato minori entrate per lo Stato, hanno aumentato l'IVA, ma nel frattempo sono ridotti i consumi, quindi il risultato netto è rimasto invariato se non negativo, così come hanno ridotto il costo del lavoro anche di enti pubblici, ma aumentata la spesa per i sussidi di disoccupazione, quindi alla fine anche qui il saldo è dovuto essere più negativo che positivo. E questo è un segnale importante, nel senso per far riflettere, per dare indicazione di quanto poi sia importante ponderare gli interventi di rigore fiscale con un occhio anche alla crescita, perché senza crescita in recessione qualsiasi intervento fiscale tende poi a non essere efficace. Infatti è per natura. Visto in Grecia e in Portogallo e anche un pochino da noi. Un pochino da noi, però in Grecia e in Portogallo si rischia di innescare una spirale ancora più negativa di quello che già era la situazione di partenza. Allora senta Casuccio, le chiedo, visto che questo tema l'abbiamo lanciato, devo farvelo commentare, abbiamo 4 minuti prima di chiudere, poi do l'opportunità anche a Saverio Scelzo di replicare le osservazioni di Riccardo sul tema dell'export tedesco, del crollo che questo potrebbe subire qualora ci fossero problemi più forti sull'euro, che speriamo però in realtà noi di aver scongiurato, ma anche quello è un tema che richiederebbe una puntata a sé. Casuccio, le volevo chiedere una considerazione sul BTP Italia, tesoro pronto alla terza emissione fra il 15 e 18 ottobre, grande corsa dei risparmiatori italiani nell'emissione di marzo, un po' meno nell'emissione successiva di giugno, mi sembra, adesso non mi ricordo il periodo in cui è stata fatta appunto la seconda tranche. Su questa terza che aspettative ci sono? 31 maggio, buone. Credo buone, perché appunto l'Italia ha recuperato un po' di fiducia ancora in questi mesi, la situazione attuale credo sia di maggior stabilità, ecco, anche se ripeto non siamo ancora fuori da ogni difficoltà, però anche la percezione è migliorata e il titolo rimane secondo me un investimento interessante per un piccolo risparmiatore intenzionato soprattutto magari a incassare questa cedola importante di 6 mesi e portarlo presumibilmente a avere la protezione dell'inflazione e magari portare a casa il premio fedeltà se il titolo si mantiene a scadenza. Quindi tutti i propri aspetti assolutamente prudenziali che possono sposarsi molto bene con le esigenze del tipico risparmiatore italiano. Saverio Scelz, un commento anche a lei, se vuole, anche la replica, l'osservazione sulle Mercedes e le Volvo tedesche. Ma sì, come dicevamo prima, le BMW, sbagliato anche case. È difficile ipotizzare il crollo dell'euro, noi siamo sempre stati positivi in questo, anche in tempi molto più difficili, francamente è un esercizio mentale che in questo momento non mi sembra neanche di voler fare. Però vorrei, era interessante anche il discorso sull'Irlanda e sul Portogallo, perché in effetti per noi che cerchiamo di dare dei rendimenti ai nostri clienti, in qualche modo stiamo sempre dalla parte più del cliente, non dall'emittente. Oggi pensiamo ai rendimenti, per esempio, dell'Irlanda sono del 4,88% a 10 anni stamattina, cioè in questo istante, mentre il Portogallo dà dei rendimenti a 8,7%, 8,714. Quindi quello che diceva prima il collega poi si ripercuote di fatto nei numeri, uno è più virtuoso rispetto all'altro, anzi addirittura viene percepito meglio dell'Italia perché paga meno di quanto viene ad essere retribuito il risparmiatore che investe in titoli italiani. Ed è per questo che, data la situazione, i titoli BTP Italia, che hanno dato l'altro giorno una cedola, hanno staccato cedola al 5% di fatto, è straordinario come rendimento. Fra l'altro promette a 4 anni di vincere l'inflazione e non c'è assolutamente nessun motivo per dubitarne. Quindi è un ottimo titolo per il risparmiatore italiano. La seconda asta non è andata tanto bene effettivamente, ma probabilmente perché, come diceva ieri la Cannata, hanno sbagliato il periodo, il momento, altre scadenze, quindi vedremo se questa terza chance sarà migliore da questo punto di vista. Ne riparleremo sicuramente nel momento in cui ci sarà il collegamento, il collocamento. Intanto grazie molto a Giulio Casuccio, Saverio Scelz, Salvadanaio termina qui, grazie a tutti e naturalmente buon fine settimana, a lunedì.